Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti e ben ritrovati a Salva Danaio. Come avete avuto modo di sentire, lo abbiamo anticipato anche ieri nella nostra trasmissione, dal prossimo anno cambia l'ISEE. L'indicatore, lo dico alla francese, l'ISEE con due finali, l'indicatore della situazione economica equivalente della famiglia italiana, del contribuente. Uno dei punti dell'agenda di governo è proprio infatti la ridefinizione di questo strumento di calcolo della disponibilità economica dei nuclei familiari, un cambiamento che viene previsto, per l'esattezza, dall'articolo 5 dell'arcinota ormai legge Salva Italia. Tanto per capirci, questo indicatore è quello che le famiglie calcolano quando fanno domanda per ricevere le agevolazioni fiscali legate agli asili nido, oppure il bonus dell'energia elettrica, oppure per il pagamento delle rette dei centri che ospitano persone con disabilità o anziani e una serie di prestazioni assistenziali. Ogni anno vengono compilate qualcosa come 7 milioni di dichiarazioni ISEE. Che cosa cambierà dal prossimo anno? Che nel nuovo calcolo del reddito imponibile, la base di riferimento, cioè per l'imposizione fiscale di tutti noi, dovrebbero rientrare una serie di quote di patrimonio e reddito prima esenti. Questa novità, che per essere precisi non è ancora assolutamente chiara, questo va detto, sapremo qualcosa di più solo nelle prossime settimane, ha però già scatenato le preoccupazioni di centinaia di famiglie, vale a dire soprattutto le famiglie che hanno a carico persone disabili, in quanto le indennità di accompagnamento e sostegno che vengono loro riconosciute potrebbero essere messe in discussione. Noi abbiamo ritenuto di sollevare la questione dopo aver ricevuto molte mail di famiglie preoccupate che ritengono ingiusto questo provvedimento, dato che le indennità di accompagnamento appunto potrebbe rientrare nel conteggio del reddito disponibile con un possibile taglio dei servizi o delle agevolazioni a cui appunto queste famiglie hanno diritto. Cercheremo di capire se tutto questo corrisponde a verità con il contributo quest'oggi di Pietro Vittorio Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il superamento dell'handicap, che sta facendo questa organizzazione un grande tam-tam appunto su tale questione. Dottor Barbieri, presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere con noi a Salva Danaio questa mattina, così come ringrazio Dino Giornetti, responsabile settore ISE per i CAF CISL, cioè i centri di assistenza fiscale di questa organizzazione sindacale della CISL. Dottor Giornetti, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e al dottor Barbieri. Avete un bel po' da fare, mi sa, in questo periodo, tra, a parte l'ISE che ancora non ha avuto i dettagli relativamente alla sua ridefinizione, ma tra IMU e tante altre cose che stanno preoccupando le famiglie, mi sa che i vostri centri di assistenza fiscale in questo periodo sono particolarmente frequentati, Giornetti. Assolutamente, anche perché noi siamo già in attivo con l'attività fiscale, quindi la dichiarazione dei redditi. Infatti. Tutto quello che è successo sull'IMU ci lascia un po' di incertezza, quindi sull'attività che stiamo e anche le numerose informazioni che ci vengono richieste da tutti i cittadini. Certo. Come ha già detto, anche questo campo di applicazione nuovo che il decreto Monti Salva Italia porta come novità sostanziale sull'ISE crea qualche dubbio, perplessità e qualche preoccupazione anche dal punto di vista operativo. Infatti, esattamente come è successo per l'IMU, adesso molti equivoci e molti chiarimenti sono stati sgombrati e molti chiarimenti sono stati fatti, ma dovremo appunto capire anche che tipo di modalità per l'IMU le famiglie sceglieranno di utilizzare per il pagamento e il versamento di questa, le tre rate, perché c'è questa opzione. Comunque, insomma, di IMU torneremo a parlarne più avanti. Oggi parliamo di ISE e delle preoccupazioni soprattutto per le famiglie che hanno disabili a carico. Qualcuno ci ha scritto, io poi vorrò leggervi una lettera soprattutto di una signora da Roma che ci ha scritto, di Rocca di Papa, Viviana, e io era proprio dall'SMS di Viviana che avevo così ipotizzato di trattare prima o poi questo argomento. Poi ieri l'abbiamo interpellata, Viviana ci ha raccontato a lungo la sua storia, non si sente di intervenire questa mattina, ma ci ha scritto una lunga mail che io tra poco vi leggo, così come appunto poi sentiremo anche altri ascoltatori che sapendo della trasmissione di oggi ci hanno contattato nella giornata di ieri. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, ci potete scrivere anche al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete andare anche a curiosare sul nostro profilo Facebook, che è al profilo per l'appunto all'indirizzo salvadanaio-radio24. Di borsa abbiamo parlato fin troppo ieri e oggi, soprattutto troppo ieri, perché è stata una giornata bruttissima. Oggi c'è un rimbalzo poco più che tecnico tra i listini del vecchio continente. Adesso Milano fa più 1,52, ieri ha perso il 3,83%, Parigi più 0,8%, Francoforte più 0,47%. Vedo già che stanno allentando la presa positiva i listini europei. Londra più 0,39%, e d'altronde il mood, il sentimento è ancora piuttosto negativo tra appunto gli operatori di mercato, per cui non è che questo rimbalzo di questa mattina cambi lo scenario di fondo. La incertezza politica alimentata ieri dal risultato elettorale francese e anche dalla crisi di governo olandese, appunto, sono stati i fattori che hanno determinato i forti cali, appunto, ma queste condizioni non sono cambiate, pertanto oggi, oltre che il rimbalzo tecnico, non possiamo avere, presumibilmente, a meno che non arrivino notizie straordinariamente positive nel pomeriggio negli Stati Uniti, appunto, che ci possono aiutare. Ci sono molte trimestrali, inizia anche la riunione della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Di fatto una buona notizia è che il Tesoro italiano è riuscito a collocare tutti i titoli previsti questa mattina, ma la notizia meno buona è che, come nelle attese, i rendimenti sono schizzati di nuovo verso l'alto. Per i CTZ, 2 miliardi e mezzo di euro di titoli collocati, appunto, il mercato ha chiesto il 3,35% contro il 2,35% di rendimento del collocamento di marzo. Per i BTP indicizzati all'inflazione con scadenza settembre 2017 e settembre 2019, il Tesoro ha collocato 943 milioni di euro. In questo caso i rendimenti sono stati del 3,88% e del 4,32% rispettivamente, anche in questo caso appunto in forte rialzo. Io però direi di lasciare la borsa subito, andiamo al tema di oggi e sentiamo in che cosa dovrebbe consistere questa ridefinizione dell'ISE secondo le intenzioni del governo. Sono poche le certezze attorno al nuovo ISE, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente. Quel che è certo è che il decreto Salva Italia ha annunciato che nel calcolo del reddito disponibile rientreranno, tra l'altro, le somme esenti da imposizione fiscale, le quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia e le persone disabili a carico. Dal 1 gennaio 2013 ai soggetti in possesso di un ISEE superiore a una certa soglia, ancora da stabilire, potrebbero non essere più riconosciute alcune prestazioni di natura assistenziale. In attesa di apprendere le linee attuative del nuovo indicatore ISEE, si conosce già la platea di famiglie che sarà interessata dalla modifica normativa. Sono infatti oltre 7 milioni i nuclei familiari che ogni anno presentano dichiarazione ISEE, ad esempio per l'asilo nido, per il ricovero in residenze sanitarie assistenziali o per agevolazioni tariffarie sui consumi elettrici. Infine, gli effetti della revisione dell'indicatore si rivelerebbero particolarmente negativi per le persone disabili. La loro indennità di accompagnamento potrebbe infatti rientrare nel conteggio del reddito disponibile, con un possibile taglio dei servizi o delle agevolazioni a cui hanno diritto. Tra l'altro c'è anche un'altra notizia questa mattina sui giornali, ne sapremo qualcosa di più preciso nelle prossime ore. Oggi a Roma viene presentato il nuovo conto corrente di base, che è quella soluzione senza spese per le famiglie svantaggiate, ed è in teoria appunto quel conto corrente che è destinato a quei pensionati che dai prossimi mesi avranno l'obbligo di accreditare su conto corrente la propria pensione. Quindi per pensioni molto contenute naturalmente serve un conto corrente che abbia praticamente qualcosa come zero costi. Ecco, anche in questo caso per poter sottoscrivere un conto con queste condizioni bisognerà avere un ISE molto contenuto, sotto i 7.500 euro, quindi questo tanto per capire quali campi di applicazione ha questo indicatore. Dottor Giornetti, giusto? Sì, non so se ha letto confermo. Anche la notizia, ecco. Sì, le confermo come dalla scheda, tutto quello che oggi attualmente collega una prestazione a un reddito viene ridimensionato attraverso l'ISE, che è una concezione della situazione economica dell'intero nucleo, quindi non solo del singolo individuo, ma dell'intero nucleo per accedere a prestazioni, chiamiamole sociali, ma come abbiamo visto precedentemente di larga diffusione. Aggiungerei anche le prestazioni collegate alle tasse universitarie, dove vedono la partecipazione al costo anche attraverso l'indicatore. Allora, adesso cominceremo subito a sentire le testimonianze dei nostri ascoltatori, perché oggi ci tengo particolarmente far sentire la loro voce, però vorrei sentire anche il presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, Pietro Vittorio Barbieri, che vi ho presentato prima, che già da qualche settimana, in vista di questa revisione ISE, ha inviato in qualità appunto di presidente di questa organizzazione un documento al ministro Fornero e al sottosegretario al ministero del welfare, appunto Cecilia Guerra, dove venivano sollevate tutta una serie di problematiche. Ma le chiedo soprattutto, presidente, che tipo di tam-tam è partito fra le famiglie che aderiscono alla vostra associazione, che vivono questa problematica molto seria appunto di dover accudire persone disabili, naturalmente? Che tipo di preoccupazione hanno sollevato attraverso la vostra associazione? Guardi, la preoccupazione è quella di, lo dico come dire in maniera molto diretta, di quella di tornare agli anni 50, cioè al momento in cui le famiglie non erano in grado di sostenere, come dire, la permanenza presso la famiglia di una persona con disabilità, perché non hanno nessun sostegno né di carattere economico né di carattere assistenziale, ragione per cui la scelta, l'opzione della maggioranza delle famiglie non poteva essere altro che inviare le persone con disabilità presso istituzioni come erano i befotrofi, le scuole speciali e via discorrendo. Quindi, riaprendo un capitolo doloroso di istituzionalizzazione di cui nessuno sente il bisogno. Cioè, in sostanza si vede ridurre complessivamente l'impegno dello Stato nelle politiche sociali, che questi siano servizi. Abbiamo assistito a un taglio del 37% di fondi complessivamente destinati alle politiche sociali, e quindi una riduzione dei servizi che già erano molto molto scarsi rispetto alla media europea. E poi se assistiamo anche alla riduzione della possibilità di accedere all'indennità di accompagnamento, è di tutta evidenza che questo significa privatizzare, come dire, la disabilità, lasciarla in mano all'unica struttura sociale che è degna di questo nome, che è la rete familiare, relazionale, che appunto un soggetto, una famiglia riesce a creare. In media che tipo di prestazioni assistenziali anche in termini economici hanno queste famiglie, dottor Barbieri? Quindi che tipo di ricadute pratiche, concrete potrebbero esserci rispetto a questo provvedimento? Guardi, le dico, partiamo dal presupposto che chiunque ha avuto una persona non ha autosufficienza. Sì, non c'è sostegno economico che tenga, che li possa sostenere. Su questo lo diamo come dato di fatto, presidente. No, ma per dare dei dati, si parte da un costo, voglio dire, a meno che non sia sommerso per una badante, di minimo 1.500 euro al mese. Il costo dell'indennità di accompagnamento è circa 470 euro mensili, per cui non ne copre neanche un terzo. Uh-huh. I servizi dei comuni complessivamente nel 2008 erogati dai comuni erano per anziani e disabili 4 miliardi e 4 di spesa, che spalmati sulla platea sono circa 100-150 euro mensili, per cui a quelle 470 andiamo ad aggiungere una media di 100-150. Questo è quanto si può contare. Poi c'è tutta la parte sanitaria, che per fortuna esiste, ma sulla parte sociale è solo ed esclusivamente questa quindi parte. Questo è il campo sul quale la revisione dell'ISE potrebbe intervenire su certe famiglie, tagliando questa prestazione? È evidente, perché un reddito familiare si spera che sia sufficiente per riuscire ad avere una dimensione appunto non di povertà. Si rischia che solamente coloro che sono poveri avranno accesso a determinate prestazioni. Allora ci fermiamo adesso perché abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario, poi vado subito alle testimonianze di Alessandro da Viterbo. Alessandro ieri ci ha scritto, noi questa mattina abbiamo subito approfittato della sua disponibilità appunto per raccontarci la sua testimonianza e per soprattutto farci la sua domanda. Poi sentiremo Nicola da Verona, vi voglio leggere la lettera di Viviana, tutto questo tra pochissimi minuti. Oggi a Salvadanaio parliamo di ISE, l'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie italiane. Per qualcuno qualcuno sarà un termine sconosciuto, per qualcun altro invece assolutamente no, perché se lo sarà fatto calcolare dal consulente fiscale di riferimento per poter capire a quale tipo anche di prestazione sociale, sanitaria ha diritto. È un indicatore che deve essere utilizzato anche per esempio quando mandiamo i nostri bambini all'asilo nido e quindi magari c'è un comune che ci rimborsa una parte di rata e di rette, e quindi però dobbiamo dimostrare che abbiamo anche determinate condizioni reddituali. Ebbene, questo è lo strumento che viene utilizzato principalmente proprio per queste finalità. E però, siccome verrà ridefinito sulla base di quanto ha previsto l'articolo 5 della legge 214 del 2011, che è la famosa legge Salva Italia, molte famiglie sono preoccupate perché, siccome cambiano i parametri di calcolo, potrebbero essere a rischio, lo hanno sollevato molte famiglie, le indennità di accompagnamento appunto per le famiglie che gestiscono persone disabili all'interno del proprio nucleo familiare, ma non le gestiscono così per volontariato, perché sono evidentemente componenti della famiglia. E allora sentiamo Alessandro da Viterbo, che ieri ci ha scritto, quindi io lo saluto con grande affetto. Alessandro è un nostro ascoltatore non vedente, titolare di indennità di accompagnamento. Alessandro, perché è preoccupato? Ci racconti? Sì, buongiorno. Io ho un'attività lavorativa e l'assegno di invalidità. Mio figlio, che ha un suo reddito, è a mio carico e pur facendo parte del mio nucleo familiare. L'anno prossimo io dovrò compilare l'ISEE. Mio figlio quest'anno cambierà residenza, quindi uscirà dal nucleo familiare. Quindi l'anno prossimo non farà parte dell'ISEE, immagino. Dal punto di vista però reddituale, il reddito di quest'anno diciamo farà accumulo comunque parzialmente o totalmente? Allora Alessandro, aspetti lì perché vado subito dal nostro esperto dei centri di assistenza fiscale, Dino Giornetti. Intanto, quando noi parliamo di assegno di invalidità e indennità di accompagnamento, parliamo chiaramente di due prestazioni sociali differenti, no? Per cui non lo so se l'assegno di invalidità potrebbe essere messo in discussione per Alessandro in virtù dei cambiamenti a cui va incontro l'ISE, dottor Giornetti. Sì, allora intanto rispondo direttamente ad Alessandro sulla domanda sul reddito del figlio. Si presume che prima di effettuare l'ISE il figlio possa cambiare la residenza, quindi non risieda più, e siccome il nucleo viene valutato alla data di presentazione dell'ISE, non essendo più nel nucleo familiare, quindi non risiedendo più con la persona titolare o del dichiarante dell'ISE, non andrà inserito nessun reddito, perché non viene inserita più le persone che sono estranee al nucleo alla data di presentazione dell'ISE. Quindi in questo caso verrà richiesto solo le componenti economiche delle persone che sono, risiedono nel nucleo con Alessandro, quindi eventuali altre persone diverse dal figlio. Ecco, relativamente invece alla prestazione che lui riceve, Alessandro deve temere qualcosa, a suo avviso? Allora, anche se non sappiamo ancora. Ecco, per quanto possiamo dedurre dal decreto, che è abbastanza chiaro, si parla di applicare l'ISE a una sorta alla totalità delle prestazioni assistenziali. Qui il dubbio a monte è uno: per l'accompagno, per alcune prestazioni, per indennità di accompagnamento ad esempio, non è necessario per l'accesso un requisito economico. Quindi il dubbio che possiamo avere alla data attuale è che venga inserito un requisito economico lì dove oggi non è previsto. Quindi per il nostro ascoltatore vale chiaramente l'invalidità che ha. Assolutamente, ecco, l'invalidità richiede un requisito economico, invece dal decreto si deduce che dove è richiesto un requisito economico, dal 1 gennaio 2013 possa essere richiesto un requisito sempre economico, ma non più legato al reddito, ma legato all'indicatore del nucleo familiare, ovvero l'ISEE. Volevo sentire che cosa ne pensa anche Barbieri, visto che è il suo campo di competenza, per questo ascoltatore che appunto è ovviamente disabile, dato che è non vedente. Dottor Barbieri, Presidente. Ha ragione l'amico Giornetti, in realtà il decreto è molto chiaro. Quello che non è chiaro però sono le intenzioni su come applicarlo, perché in realtà le dichiarazioni e gli incontri che noi abbiamo avuto con il ministro Fornero e il sottosegretario Guerra ci dicono delle cose diverse. Allora, se il decreto dice delle cose chiare, dall'altra parte l'intenzione che ha la parte, come dire, di lavoro e politiche sociali del governo è quella di distinguere alcune prestazioni che sono evidentemente essenziali, disconoscendo anche pubblicamente come dire, la paternità di quell'articolo. E qui c'è una questione politica molto delicata che adesso andremo a scoprire, perché poi un DPCM o una bozza di documento dovrà per uscire. Forza. È chiaro che il nostro allarme è esattamente questo, perché da un lato l'articolo è molto, molto chiaro e molto evidente, dall'altra parte riceviamo delle rassicurazioni per le quali l'indennità di accompagnamento, almeno in un campo ampio che riguarda le persone con disabilità, non dovrebbe essere sottoposto alla valutazione abituale, quindi all'ISEE. Allora, noi tra l'altro, per poter fare ancora dei ragionamenti più chiari per i nostri ascoltatori, adesso chiedo anche di immaginare a Giornetti, poi lo aiuterò io appunto con un esempio, come poter spiegare concretamente appunto ai nostri ascoltatori effettivamente come si calcola ora l'ISE, che tipo di indicazioni economiche della famiglia vengono prese in considerazione e quali nuovi invece elementi verranno considerati successivamente, quando appunto si procederà a questa rivisitazione appunto preannunciata dalla legge 214. Intanto andiamo ad un altro ascoltatore, che è Nicola da Verona, che saluto. Nicola, buona giornata. Sì, buongiorno a lei. Io in realtà volevo dire un'altra cosa, che è già l'INPS stessa che sta provvedendo a tagliare l'indennità di accompagnamento, a volte anche in maniera molto indiscriminata. E porto l'esempio di mio figlio. Io ho un bambino di 5 anni con una disabilità mentale abbastanza grave, a cui l'INPS stessa 2 anni fa ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento. Il bambino è stato convocato questo gennaio a Verona per una visita straordinaria nel programma di controllo dei falsi invalidi, sostanzialmente. In 15 minuti una dottoressa del lavoro, quindi neanche un neuropsichiatra, e non c'era neanche una commissione come doveva esserci, ha sentenziato, ci ha mandato un verbale pieno di errori di sintassi anche di italiano, un mese dopo, che il bambino non ha più diritto all'indennità di accompagnamento. Il problema è stato risolto alla radice. Sì, allora, tra questo è un altro aspetto, Nicola, sì, mi dica. Sì, tra l'altro poi si diceva che l'assegno di accompagnamento non è soggetto a requisiti economici. Nel verbale siamo stati informati che è in corso un accertamento fiscale a nostro carico per i requisiti socio-economici dell'indennità di accompagnamento, e comunque anche un accertamento sulla stessa commissione IMSS 2011 che aveva riconosciuto l'indennità a mio figlio. Come ultima checca, poi vi lascio, la signora che ha fatto la visita fiscale a Verona a mio figlio è una signora che è stata condannata a 1 anno per peculato e truffa ai danni dello Stato. Nicola, mi dispiace molto per come è andata a finire la sua storia, io spero che in realtà non sia finita qua, però volevo chiedere appunto al presidente Barbieri, forse stiamo parlando di due situazioni diverse, perché so che l'INPS naturalmente ha attivato tutta una serie di controlli nei mesi passati, proprio per, esattamente come a livello generale si sta facendo la lotta all'evasione fiscale, qua si sta facendo anche una lotta per cercare di capire chi percepisce queste prestazioni non avendone alcun diritto, perché insomma la questione dei falsi ciechi ne abbiamo viste tante raccontate sui telegiornali e quant'altro. Altro. Per cui, Nicola, si può essere imbattuto in una vicenda di questo genere, nel senso che l'INPS ha monitorato tutti i requisiti di quelle persone che fanno richiesta di queste prestazioni assistenziali e magari erroneamente ha tolto la pensione al suo bambino? Sì, purtroppo è possibile. Allora, vanno detto alcune cose. In realtà le due cose sono abbastanza collegate. Non solo perché c'è appunto un tentativo da parte di INPS utilizzare anche criteri socio-economici nella valutazione di alcuni emolumenti, cioè estendendo quello che è previsto per la pensione o per l'assegno di invalidità anche sull'indennità di accompagnamento. Non solo per questa ragione, ma soprattutto per la ragione di tipo culturale che si è diffusa. Grazie a tutta una serie di dati e di informazioni fornite da IMSS si è strombazzato all'intero mondo che il campo dell'indennità di accompagnamento era pieno zeppo di falsi invalidi. La realtà è che proprio un'intervista del presidente Mastrapasqua di 2 mesi fa sul Corriere della Sera fa giustizia di tutto questo, per fortuna. E cosa dice il buon Mastrapasqua? Dice che su 1.800.000 indennità di accompagnamento erogate, solo 1.500 sono le persone che hanno le persone inquisite perché farsi invalidi. Parliamo dello 0,08%. Sono sempre tante però, Presidente, perché comunque queste persone sottraggono risorse a chi ne ha magari davvero bisogno, per cui anche un truffato, ecco, perché lei. Poi sfruttare il tema dell'invalidità, della disabilità è veramente vergognoso, per cui comunque va bene che la percentuale è bassa, per fortuna. C'è un punto, Io vorrei sapere quanti sono i ladri e i truffatori rispetto alla popolazione generale. Sì, guardi, qua apriremo. Sono equivalenti allo 0,08%. Allora siamo nel sistema fisiologico. Attorno a questo si è costruita quella campagna per cui fondamentalmente l'indennità di accompagnamento è un sostegno al reddito e non è assistenza. Ed è su questo che poi dopo, come dire, piano piano si è arrivati a questo articolo 5 che ha messo dentro. Certamente. Presidente, che tipo di indicazione possiamo dare al nostro ascoltatore di Verona? Può impugnare questa decisione dell'INPS di fare marcia indietro nella prestazione economica che gli garantiva per aiutarlo nella gestione di questo bambino con queste difficoltà? Assolutamente sì, deve impugnarla al più presto. E credo che data la conoscenza tecnica che dimostrava nella telefonata, credo e spero che l'abbia già fatto. Benissimo. Purtroppo di questi errori ce ne sono molti, molti. Mi chiamo Viviana, ho 50 anni, da 4 sono affetta da sclerosi multipla plaque. Ero una donna sana, vitale, in carriera, felice, ma questa malattia mi ha spezzato la vita sociale, lavorativa e, senza fare del vittimismo, anche la famiglia. Mi ha lasciata completamente sola, quasi fossi un'appestata. Nascere disabile è una disgrazia, ma diventarci è molto più dura. Usufruisco di una pensione di invalidità di 278 euro mensili, ho fatto richiesta dell'assegno di accompagnamento lo scorso anno, che mi hanno rigettato, e ora con l'avvocato del CAF siamo ricorsi in appello, ma so che grazie anche alle nuove leggi Salva Italia non salveranno né me né altri milioni di figli di un Dio minore. Il sistema sanitario non ci fornisce più i farmaci salvavita se non in forma di principi generici, non ce li fornisce più direttamente negli ospedali dove ci curiamo, ma dalle USL di appartenenza, dalle ASL di appartenenza, attraverso un iter burocratico tale che mi domando come faccia un essere umano affetto da patologie motorie invalidanti a seguirlo se nessuno lo fa per lui. Ora ogni 6 mesi bisogna recarsi alle ASL di appartenenza personalmente, qui mette decine di punti esclamativi, per prendere i farmaci, nel mio caso l'interferone, credo sia questo, e dopo un anno fare richiesta attraverso un modulo per ottenere il diritto di avere le medicine. E dalla sclerosi multipla non si guarisce, per cui ogni anno deve rinnovare questa richiesta. Quando ad aprile al centro sclerosi multipla del Policlinico Tor Vergata di Roma me l'hanno comunicato, ci racconta Viviana, ho deciso di non curarmi più. Che Dio o chi per lui decida della mia malattia, come crede, io non posso muovermi per tutto questo. E adesso Viviana ha anche paura che gli venga tolto l'assegno, appunto, che percepisce questa pensione di invalidità assolutamente ridicola che percepisce per gestirsi completamente. Viviana, io la saluto caramente, le scriveremo ancora, non molli invece, e con tutta la dignità di cui è capace, che ci ha dimostrato in questa bellissima lettera, appunto, continui a lottare per i suoi diritti. Giornetti del CAF CISL. Tornando a Lisa, adesso magari prendendo anche a spunto il caso della nostra ascoltatrice che ci ha raccontato tutte le peripezie che deve fare per poter reperire i farmaci che le servono per curarsi, ammettendo appunto che sia in pericolo la sua pensione di invalidità, e speriamo di no, perché 278 euro se le vengono a mancare sarebbe veramente il massimo, un crudelissimo scherzo, che tipo di ISE nuovo dovrà essere tenuto in considerazione per fare una valutazione per questa appunto ascoltatrice sul diritto o meno di avere questa pensione? Cioè, prima come veniva calcolato e potenzialmente come potrà essere calcolato nei prossimi mesi, anzi dall'anno prossimo? Chiaramente rispondo subito all'ascoltatrice. Per quanto riguarda il futuro, dipende da quali sono le sue condizioni economiche, quindi oltre al disagio bisogna vedere quali effettivamente sono gli altri redditi in possesso della persona e del suo nucleo familiare, per poi capire quali saranno le condizioni future. Ecco, ma quali redditi prima non venivano considerati nell'ISE e quali oggi nuovi? Ecco. L'ISE innanzitutto ha un valore annuale, quindi è una dichiarazione pesante che dà diritto ad accedere, quindi a poter accedere a presentare la domanda per un numero sempre maggiore di prestazioni, è un onere iniziale che dura un anno, quindi con la stessa dichiarazione può essere richiesto più prestazioni sociali relativamente offerte sul territorio. Ad oggi, perché ancora ad oggi, quindi per tutto il 2012, l'ISE viene calcolato nella consueta modalità, l'ISE è un indicatore del nucleo familiare che mette in rilevanza il reddito di ogni persona componente del nucleo e il 20% della componente del patrimonio mobiliare e immobiliare. Il risultato di calcolo viene diviso da una scala di equivalenza che premia la numerosità del nucleo e condizioni di disagio sociale, quelle considerate. Una è l'invalidità superiore al 66% e l'altro sono condizioni di monogenitori e di entrambi i genitori in cui si presentano figli minori, hanno una condizione di maggior vantaggio sull'ISEE. Questo è lo stato attuale. Nel decreto non ci sono solo spunti, chiamiamoli dubbi, ma ci sono anche delle certezze che portano a valorizzare anche determinate casistiche positive. Dal punto di vista dell'ulteriore semplificazione nel migliorare una propria quota ISE, viene valorizzato già nel decreto il secondo figlio minore, quindi una quota data a favore, facendo ottenere a parità di reddito, quindi, e patrimonio un ISE più basso, e vengono considerati anche i disabili a carico, quindi si presuppone che verranno considerate dal legislatore anche queste due variabili, quindi il minore e il disabile, affinché si ottenga un ISE leggermente più basso rispetto al passato. Per quanto riguarda le novità introdotte dal decreto, la novità principale è sui redditi. Ad oggi nell'ISE vengono inseriti solo redditi assoggettabili all'IRPEF, quindi tutti i redditi lordi assoggettabili all'IRPEF. Dal 2013, oltre a questi redditi, verranno inseriti anche ulteriori redditi, quali quelli non assoggettabili all'IRPEF. Banalmente, c'è un ascoltatore che ci scrive: io per esempio ho dei conti di deposito, verranno considerati anche quelli? È lo strumento di risparmio adesso più diffuso tra i nostri ascoltatori. Di deposito già da oggi è una delle criticità principali dell'indicatore, sul quale lo stesso decreto, l'articolo 5, nella parte finale dell'articolo, parla dei controlli che sono necessari affinché effettivamente chi dichiara il vero venga premiato rispetto a chi elude o evade tale informazione. Ad oggi tutto quello che è patrimonio mobiliare, quindi conto corrente, risparmi, viene inserito già nell'ISE. È una componente che dai dati nazionali sembra un pochettino bassa, quindi sembra un dato poco reale rispetto alla situazione italiana, mentre la componente del patrimonio immobiliare è molto presente, quindi quella del patrimonio immobiliare presenta delle lacune. In ogni caso ad oggi già deve essere dichiarato tutto quello che è il risparmio di una famiglia. Allora, io ho pochissimo tempo, Albertina da Pistoia, ce la fa ad essere rapidissima, cortesemente, grazie. Buongiorno, ma non lo so, perché sarebbero tantissime le cose da dire. Una, allora, posso dire una che, solo, io e mio marito siamo due pensionati, lui che non arriva a 1000 euro al mese per quanto riguarda l'INPS dopo 45 anni di lavoro, io che prendo 680 euro, mi viene chiesta l'ISEE per poterlo mandare 15 giorni in un RSA per avere anch'io un attimo di riposo, nella quale gli venga fatto anche la riabilitazione, e mi venga chiesto dai 50 a 55 euro al giorno. Dunque, forse potrei avere un ribasso di questa lettera, di questa retta, facendo fare l'ISEE alle mie figlie. Io ho tre figlie, ringrazio Dio per questo. Però in questi ISEE viene compreso se questi generi hanno la firma su conti correnti dei genitori. Albertina, è una questione un po' complessa. Io adesso devo mandare in onda la nostra pillola INPS. Stiamo cercando di farvi conoscere la riforma delle pensioni. Oggi abbiamo la pillola sul prorata e poi vediamo se riesco a risponderle dopo. Forse non ce la farò, ma vediamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Nella riforma Monti-Fornero si applica a tutti il metodo di calcolo della pensione, cosiddetto contributivo, ma con il sistema del prorata. Che cosa significa prorata? Già la riforma Dini del 95 aveva introdotto il metodo di calcolo contributivo, Ma il nuovo metodo non valeva per tutti. Valeva interamente, in particolare, per coloro che cominciavano a lavorare dal 1 gennaio 96 e, solo per il futuro, per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 95. Per coloro che avevano più di 18 anni di contributi a quella data, continuava a essere applicato il metodo cosiddetto retributivo. Con la riforma Fornero, invece, il nuovo metodo riguarda anche questi ultimi, sia pure pro rata. Questa espressione significa che la pensione sarà calcolata con il metodo contributivo solo per i contributi versati dal 1 gennaio scorso, mentre per tutti gli anni di lavoro precedenti sarà calcolata con il vecchio metodo retributivo e alla fine sarà quindi composta da due quote. Presidente Barbieri, io sono in chiusura, ma in 10 secondi un'indicazione ad Albertina riusciamo a darla? Ma complicato, credo che sia illegittimo quanto gli chiedono, cioè la firma sul conto corrente da parte delle figlie, mi sembra occhio e croce, però... Magari recuperiamo Albertina, ce la facciamo raccontare un po' meglio la questione, poi Presidente la chiamerò in privato per sottoporgliela e quindi dare una risposta più precisa alla nostra ascoltatrice. Intanto grazie a Vittorio Barbieri e a Dino Giorgetti per essere stati con noi, Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti.